Yeah. La prossima è ogni inverno. Come get so deep, Grazie mille. E come detto prima, noi siamo gli Oini da Milano, ed è davvero un piacere. Anzi, raga, va detto, è la prassi. Raga, davvero siamo. Io sono molto emozionato. Penso anche agli altri, il mio primo concerto con la banda l'ho fatto qui 5 anni fa. Sono cambiate cose, sono scoppiate le pandemie, sono letteralmente finito in psichiatria, però vabbè, dai, fa parte della lore. E davvero grazie mille, tanto. Anche a Marco che ha detto, davvero grazie mille. È bello rivedervi qua anche dopo 5 anni. Davvero non datela per scontato tutto quello che sta succedendo ora. Prima non era così, adesso è molto bello, davvero, veramente, tanto. Questo è per il COX, che ci ha permesso di poter essere qui stasera, neanche 5 anni fa. Canzone vecchia che non suoniamo da almeno un anno, ma per la prima volta la faremo col sample. They didn't much care for anything else, because all they wanted to do was be with each other. We're always together. Very happy. Yes, they were. They were real happy. And he loved her more. He couldn't stand being away from her during the day when he went to work. Then he'd get another job when the money ran out. And then he'd quit again. But pretty soon she started to worry. Thank you. Facciamo da tanto tempo e dato che siamo a Milano da almeno per un po' di tempo, Milano ogni primavera. A proposito di casa, volevo fare gli auguri a Marco, a Paglia, che alla fine è stata la mia casa, insieme a tutta la mia bramante, che sta a Cinisello. Grazie al PC Quartiere, grazie di tutto, davvero non date per scontato le amicizie che durano da tanto tempo, sono le uniche cose che a una certa ci fanno andare avanti. Grazie raga. Ci ho creduto qua! Ci ho creduto! Cos'è il tango? Il tango! Una ragazzone vecchia! Questa è questo è per i Puttpura negli Eremo che hanno suonato prima di noi da qualche parte nel momento giusto. Perché è da tanto che non si suonava a questi orari, ci ha ricordato. Io sono della Lelas. Grazie davvero a tutti quanti, veramente. È bello di vederci tutti quanti qua. Alla fine questo mi sa che è il nostro primo concerto ufficiale post pandemia, perché l'anno scorso quando abbiamo suonato al Bloom c'era comunque il Covid. E... raga, c'era il Covid, non mi rompete i coglioni. C'era il Covid. Raga, c'era, raga, sondaggio, c'era il Covid sì o no? Forse. Sembra il nostro primo concerto a Milano dopo almeno 5 anni, forse. Non abbiamo parole per esprimere tutto quello che c'è stato in questi ultimi 5 anni, ma anche da prima che c'era sta banda, che alla fine sono rimasto solo loro due, ed è bello in tutti i modi, nei migliori mondi possibili, che siamo qua. Dai, tardi. Sì, presto, raga, presto. Mezzo mezzanotte, è l'una. Che ore sono, raga? Veramente non. Bro, sono le 40. Sono le 10:20. Pelle, abbiamo tempo. Ci abbiamo. Era questa in realtà. Quante ne possiamo fare? Due riusciamo. Raga. dai cani fuori, quindi è come se fosse doppia. La prossima è sull'altro lato del fiume. Yeah. Ne facciamo due. No, raga, no, no, è che sono attaccate. È quella, la scammata. Però ci sta, ci sta. Sembrava, sembrava. Uno più uno. One plus one. Esatto. Alla fine, dai! C'è sempre bisogno di un lieto fine. Con questa canzone abbiamo cominciato ai Cox 5 anni fa. E mo ci finiamo. Questa si chiama Kylie Swanee. Yeah. un coltello nella mano sinistra, perché l'una volta sono grande. Con un coltello nella mano sinistra, I don't know. Then I'm on a dinner.